detasserà gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale in modi, in tempi ancora da stabilire, che però è un chiaro messaggio al fatto che è opportuno e ragionevole ad oggi andare verso questi tipi di investimenti che sono rischiosi in senso buono. Work in progress, come si potrebbe dire. Io direi che a questo punto possiamo andare a sentire suggerimenti per chi è in viaggio. Chiedo un minuto di pazienza al dottor Lose, solo perché per lanciare poi la dottoressa Lucini vorrei provocarlo un po' su questa ricerca che ci hanno portato, che è molto interessante. Segnalo solo Davide da Ivrea, perché poi gli ascoltatori che investono in ETF, che sono strumenti diversi dai fondi di investimento, pensano sempre che non vogliamo mai citarli, che su questi strumenti non andiamo. Invece Davide, le dico che abbiamo già delle puntate in programma anche su questo argomento, e insomma tante osservazioni anche sul tema del risparmio. Ci fa piacere, ma potete continuare a scriverci anche nei prossimi giorni. Cuore e denari. Io non ho la macchina del tempo, ma sono convinto che con il potere della mente, abbinato ad una serie di abitudini sane, si possa riconquistare la salute fisica ed emozionale della propria giovinezza. Questa è la ricetta di Deepak Chopra, medico ayurvedico noto in tutto il mondo per aver proposto un nuovo paradigma di benessere basato proprio sulla connessione mente-corpo, che è un paradigma che a me e Deborah piace in modo particolare, sì, che sì, lo riproponiamo spesso. La commentiamo con una grande esperta che è venuta a trovarci, la professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio di Humanitas. Buongiorno professoressa Lucini. Buongiorno. Eccoci qua al Salone del Risparmio. Certo, buongiorno a tutti, siamo qua al Salone del Risparmio, che è una cosa un po' strana forse per chi si occupa di medicina, di salute, queste cose. Invece non è vero, qua, no? Anche qua, anche sì, l'anno scorso, proprio perché in realtà la salute è una cosa preziosa, si può investire in salute per portare a casa tanti bei risultati, che non sono soltanto soldini, ma sono anche dei soldini che hanno a che fare invece con lo star bene delle persone. Ecco perché, anche perché se uno non sta bene i soldini non se li gode. Servono ben quindi, poco, infatti. Vede che bella carambata che abbiamo fatto, dottor Loser. Vede che riusciamo ad intrecciare come sempre i due temi. Tra l'altro la professoressa Lucini ha svolto una ricerca molto interessante che ha voluto tratteggiare l'identikit del promotore finanziario. Ci aiuta un po'? Sì, sì, è una cosa che abbiamo proprio fatto in occasione del salone, nel senso che abbiamo lanciato proprio sia sul sito di Humanitas che quello del Salone del Risparmio un questionario che abbiamo messo a punto noi negli anni, che ha tutta una serie di validazioni scientifiche, per andare a vedere con delle domande banalissime lo stile di vita delle nostre persone. Abbiamo raccolto un po' di dati, oltre 250 persone, tutti promotori finanziari, ed è uscito un pochettino il loro identikit, che è un po' diverso da quello della gente, diciamo così, che normalmente noi vediamo. Dell'immaginario collettivo. Volete sapere cosa è venuto fuori? Certo che sì. Allora, è venuto fuori che... Tu hai sbirciato un po', sì. Poi no, magari sarà venerdì mattina nella relazione un pochettino più ufficiale che faremo qua al salone, lo racconteremo un pochettino meglio. Quindi adesso è un'anticipazione. Io vengo a prendere appunti perché poi nel pomeriggio c'è un evento anche legato. Glielo dico dopo che cosa è legato, se no anticipo i risultati del test. Quindi l'anticipazione dell'anticipazione a cuore denari. Esatto, allora quello che è venuto fuori è che il promotore finanziario, perlomeno quello che ha compilato questo test, è una donna, intanto, una signora che ha circa 50-55 anni, sì, che è un pochettino stressata, usiamo questa parola, dove stressata vuol dire che ha una percezione soggettiva di sintomi legati allo stress, tipo la stanchezza e queste cose, abbastanza importante, e che un pochettino trascura anche il suo stile di vita, inteso come alimentazione e attività fisica. Fortunatamente fuma un po' di meno di quello che è la media della popolazione, però sull'alimentazione e l'esercizio fisico, sembra che un pochettino si trascuri in favore del lavoro o di altre cose. E noi lo sappiamo che chi si trascura invecchia di più, no? Possiamo commentare così i dati che lei ci ha anticipato, aggiungendo però un dettaglio che fa la differenza, di cui parleremo in questa seconda parte della trasmissione, cioè che uno stile di vita non adeguato, anzi trascurato, come quello delle promotrici finanziarie, riduce anche le performance, perché noi facciamo quello che siamo e quindi migliore l'età biologica, migliore sono le nostre performance, non solamente lavorative ma anche fisiche. Quindi, e questo è un tema che Deborah ha trovato particolarmente interessante, perché le dà un assist. Senti quante esse. Esatto. No, allora intanto volevo dire che venerdì pomeriggio, dopo la vostra presentazione, c'è anche la presentazione di un progetto legato ad un gruppo di donne promotrici finanziarie, si chiama proprio PF al femminile, e vogliono raccontare come in realtà sia abbastanza interessante cimentarsi per una donna in una professione come questa, perché la ritengono e la reputano molto adatta anche alla conciliazione del lavoro con la vita privata, per cui mi incuriosisce molto questo profilo che è emerso dalla vostra indagine. E peraltro il fatto che sia stressata, dottor Loser, le faccio fare un commento poi lo lasciamo andare, cioè una professionista del risparmio che deve accompagnare nelle scelte di investimento e risparmio una famiglia dovrebbe presentarsi in casa un po' serena, no? Cosa ne pensa di questo profilo che è emerso, di questo stress un po' legato alla professione della consulenza finanziaria? Ma guardi, visto quello che hanno fatto i mercati negli ultimi 5-6 anni, anche 8 direi, il fatto che sia un po' stressata è già un miracolo, no? Quando deve incontrare un cliente dire guardi, meno 20, per cui sicuramente ha già fatto la diagnosi, vedi, infatti, e quindi insomma non la stupisce più di tanto, però insomma dobbiamo in realtà aiutare questi professionisti invece ad entrare nelle case delle famiglie italiane con la dovuta serenità. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Voi avrete oggi pomeriggio una conferenza anche sulla nuova comunicazione digitale, e quindi buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille, arrivederci. E noi rilanciamo il domandone per gli amici che ci stanno ascoltando: quanti anni hai, quanti anni ti senti, quanti anni dimostri? 800 24 00 24. Ma non è finita qui, vogliamo anche sapere dove si fa sentire il peso degli anni, a livello fisico, scheletrico, muscolare, cutaneo, oppure a livello mentale. Quindi capacità e voglia di imparare cose nuove, di fare progetti, di stare, come si dice, al passo con i tempi. Naturalmente misureremo anche il livello dello stress. Lo stress non colpisce solamente le promotrici finanziarie, ma anche tutte le persone che si trovano ad affrontare il logorio della vita moderna. Voilà, adesso andiamo a sentire il nostro GR, poi torniamo insieme con le vostre domande e con i consigli della professoressa Daniela Lucini. Cuore e denari. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Eccoci qui, sono tornate le migliori, eh? Purtroppo non posso altro che confermare. Parliamo oggi di età anagrafica e di età biologica. Che si dice di voi che ve li portate bene gli anni, e voi come vi sentite? L'età scritta sulla carta d'identità dice, ma non dice tutto, a volte dice poco. 800 24 00 24, continuate a chiamarci, diteci anche dove si fanno sentire gli anni, più a livello fisico, più a livello mentale, scheletrico, muscolare, cutaneo. Possiamo approfittare oggi dei consigli della professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio Humanitas, che a partire dai nostri punteggi, metto il punteggi tra virgolette perché noi le racconteremo quello che pensiamo, percepiamo di noi, potrà darci delle indicazioni pratiche. Ma professoressa Lucini, si può misurare la propria età biologica? Perché su internet ci sono tantissimi test, direi dei gioco test, che propongono una serie infinita di domande e alla fine si raggiunge un punteggio. Forse è stata presa dalla curiosità, li ha fatti anche a lei. Qualcuno sono andata a guardarmela, ecco, devo dirlo. Chiedono un po' tutto, età, un po' stile di vita, fumi, non fumi, sei felice, fai attività fisica, ti chiedono anche dei parametri, hai la pressione alta, ce l'hai bassa, insomma tutta una serie di cose. Alla fine uno spera, vai a vedere il punteggio, promosso, bocciato, potete cercarli anche voi. Ma noi oggi dalla professoressa Lucini vogliamo farci dire se e chi dovrebbe misurare e come si fa misurare questa età biologica che racconta tanto. Intanto definiamola, l'età biologica, l'età biologica è l'età vera, diciamo così, è quell'età che non è tanto gli anni sull'età, sulla carta d'identità, è quell'età che corrisponde alla performance che l'individuo riesce a fare, quindi come funziona il suo organismo. Noi possiamo avere una persona che magari ha 70 anni ma che in realtà è in grado di performare come una persona molto più giovane, ma viceversa possiamo avere il trentenne e quarantenne che in realtà performa come una persona che ne ha 60, 70 o anche di più. Tornando a come facciamo a misurarla, c'è veramente di tutto. Allora, i questionari possono essere dei giochi, come no. Ci sono alcune cose, tipo quello che abbiamo fatto al nostro promotore finanziario, che non misurano l'età biologica, ma lo stile di vita, che poi vedremo essere correlato a queste cose. Molti dei test che troviamo in giro sono veramente un po' dei giochetti. Ci male servono, non fanno, male ci non servono fanno, per prendere consapevolezza. Per farci riflettere su alcune cose. Se poi noi però veramente vogliamo dire come faccio a misurare, diciamo che l'età biologica di per sé non si misura, se non si può invece andare a misurare quella che è proprio la capacità di funzionare del nostro organismo. Ad esempio, uno di questi modi è andare a misurare la capacità di esercizio, quello che in termine tecnico è il consumo massimale di ossigeno. Come si fa? È banale, sono degli esami come dell'elettrocardiogramma sotto sforzo, dove si misura anche l'ossigeno respirato e l'anidride carbonica che viene espirata. Vengono fatti tutta una serie di test, di parametri, e ci dicono proprio qual è la capacità del nostro organismo di fare attività fisica. Ecco, qui poi c'è tutta una serie di tabelle che lo parametro a seconda appunto di sesso e età, e qui si scoprono queste cose divertenti di cui stavi parlando prima. Tu scopri magari che hai una persona giovane ma che in realtà non riesce ad avere una capacità di esercizio come la sua età dovrebbe avere, ma viceversa scopri delle cose molto belle, delle persone la cui carta d'identità sembrerebbe dire di più, ma che l'apparenza fisica dice di meno e la capacità di esercizio invece dice che sono nettamente più giovani. Marisa ci scrive: sono nata nel 45, quindi 70 anni, frequento la terza università, ascolto Radio 24, faccio esercizi ginnici quotidiani. All'esame medico di mio nipote mi sono sentita dire: signora, suo figlio è un bambino coraggioso. E lei era invece la nonna, che soddisfazione. Brava, brava. Allora, ma professoressa Lucini, si può però arrivare a giudicare l'andamento del proprio invecchiamento anche con delle valutazioni piuttosto semplici, diciamo una sorta di autodiagnosi, ad esempio il peso, o meglio il mantenimento del peso. In pratica la domanda che noi possiamo porci e che noi oggi facciamo naturalmente a voi è: avete cambiato taglia e quindi peso da quando avevate 18 anni, o ancora il vostro giro vita è cambiato? Professoressa Lucini, questo del peso ci dà veramente un po' il polso della situazione. Una persona che è capace di mantenere il peso anche avanti negli anni di quando era giovane significa che affronta la vita con il passo giusto, esatto. Che qualcosa, no, che tutto va bene. Ma proprio perché poi il concetto di età biologica è molto molto vicino al concetto di stato di salute della persona e di stile di vita. Una persona che mantiene, come dicevi tu, il peso significa che ha un'alimentazione di un certo tipo, quindi corretta, significa generalmente e soprattutto che è in grado di fare attività fisica, quindi è una persona che riesce a conservarsi bene, e io ti aggiungerei anche a migliorarsi, perché oggi si vedono persone che hanno un peso, una taglia migliore a 40, a 50 anni rispetto a quella che avevano quando avevano 18 anni, quindi si può nettamente migliorare. Questo è veramente un parametro banale che non ha una sua scientificità, ma che è molto importante. Se poi andiamo più che sul peso, sulla circonferenza vita, che invece è un parametro che anche da un punto di vista scientifico e di rischio cardiovascolare è oggi ormai assodato, noi medici lo utilizziamo tutti i giorni per valutare. Siete sempre lì col centimetro, come le sarte. Sempre lì col centimetro. Infatti i miei pazienti ridono. E non per fare l'abito su misura. Esatto, ridono perché sul mio tavolo, oltre a fonendi o a cose mediche tradizionali, c'è sempre anche il centimetro della sarta, che è quello migliore per fare tutte queste cose. proprio perché è un parametro che si associa al rischio cardiovascolare. Se noi manteniamo la nostra circonferenza vita dentro determinati parametri, oppure la miglioriamo, allora vuol dire che in un certo senso va bene. Cioè, migliorare la propria circonferenza vita potrebbe dire quasi essere un po' come un ringiovanire, perché è veramente un qualche cosa che ci dice che stiamo meglio. E quindi, se volete ringiovanire o lasciare che permettere agli anni di lasciare un segno più leggero, ecco, perché noi tutti inevitabilmente invecchiamo, non è un concetto che riguarda e possiamo applicare solo alle persone dai 50-60 anni in su. Invecchiamo dal momento in cui noi nasciamo e iniziamo ad invecchiare, certo, no? Certo, è inevitabile, inevitabile, ma certo che possiamo farlo, no? Meglio. Ma di per sé invecchiare non è un concetto negativo, perché è una cosa normale, fa parte della vita e si acquisiscono anche tutta una serie di cose positive, di esperienze eccetera, che ci possono insegnare a ringiovanire. Cioè, questo forse è un messaggio molto importante. Più vado avanti con la mia età anagrafica, se lo faccio in maniera intelligente, imparo delle cose, vivo delle esperienze, non solo nella vita generale o nel lavoro, ma anche come nella gestione della propria salute. Quindi una persona impara e si rende conto che la salute è una cosa importante. Certo. E quindi allora, molti la trattano meglio. 800 24 00 24 per intervenire su questi argomenti. Vi preannuncio, dottoressa Lucina e Nicoletta, che vado a provare il giro vita di Walter. Vedo un po' come è messo. Walter da Rimini, buongiorno. Walter è scappato perché ha già sentito che avevo intenzione di fare una cosa che non gli piaceva. Eccolo qua, buongiorno. È pronta la misurazione del giro vita, Walter. Esatto. Oltre a tutti questi numeri che vuole darci lei stamattina, quali altri? Sì, ma io sono d'accordissimo su tutto quello che avete detto. Effettivamente io sono 30 anni, sono alto 1,80 e peso 81-82 kg da 30 anni. Quindi da quando ho 30 anni, pesavo un po' di meno, sono rimasto con questo peso, faccio ginnastica ogni giorno, sì. E mangio bene, mangio un primo a mezzogiorno, alla sera a rotazione faccio una sola bistecca, delle uova, una sera pesce, e cerco di mantenermi così. Devo ringraziare mio padre, probabilmente, che ha un DNA che lui molto perché buono, i geni aiutano Walter, sì, sicuramente vero, però verissimo. Anche noi possiamo dare dei messaggi ai nostri geni. La nutrigenomica ci racconta proprio questo: gli alimenti, anche la dieta, tutto quello che sì. mangiamo riesce a dire ai geni: lavora per me, no? Tienimi la parte. È quello che anche noi chiamiamo epigenetica, cioè dire come il comportamento è in grado di modulare come funziona il gene, diciamo così, o meglio quello che il gene può esprimere. Quindi non è soltanto tutto predestinato, quello è lo stampino, ma che cosa viene stampato dipende anche da noi. Allora, naturalmente vorremmo all'800 24 00 24 raccogliere sia esempi virtuosi come quello di Walter da Rimini, ma anche richieste di aiuto, perché gli anni passano e noi dobbiamo prenderne consapevolezza, sfruttare l'età anagrafica, l'esperienza dell'età, per convertirci ad uno stile di vita sano e poi fare anche un bilancio, perché durante gli anni noi sappiamo che perdiamo magari qualche colpo, magari a livello più fisico oppure di immagine, la nostra pelle si segna di più, oppure preoccuparci è proprio la parte mentale, no? Cioè la nostra capacità di stare al passo coi tempi, imparare nuove cose, lo stress ci avvelena un po' la vita, ci spegne un po', tutto questo accelera questa decadimento che è inevitabile, che noi vogliamo arrestare anche con gusto e con semplicità, no? Cercando di tornare anche a quello che Chopra dimostrava, che è un po' il potere della mente. Lui suggerisce degli esercizi, proprio delle respirazioni, e di visualizzare l'età in cui ci sentiamo e così ripetere questo esercizio. Anna Maria da Genova, buongiorno. Buongiorno, volevo dire appunto che secondo me tutto dipende dalla testa, perché il nostro fisico è l'involucro ed è giusto che invecchi con l'età. Io ho 62 anni ed è giusto che abbia l'età che ho. Però se noi ci manteniamo vispi come testa, riusciamo a vivere meglio, anche perché è vero, si ha una certa età, ma la mentalità rimane sempre come la vogliamo, se la vogliamo attiva, sempre viva, sempre presente. Grazie a forse perché io integro la mia alimentazione da 20 anni con degli integratori, e mi sento decisamente bene. Vado 3 volte in palestra e via. E poi la vita normale. Sicuramente questa è un'ottima cosa, proprio perché anche l'aspetto, come abbiamo detto prima, mentale è fondamentale, anzi forse oseremmo dire quasi più importante dell'altro, ma quello che conta è che l'aspetto mentale e che l'aspetto fisico vanno proprio insieme. Ci sono addirittura degli studi che fanno vedere che persone che, come la nostra ascoltatrice che mangia in un certo modo, che fa attività fisica, questo permette proprio un miglioramento delle performance mentali, quindi come una persona si sente, come una persona riesce a ragionare, le sue capacità logiche, le sue capacità lavorative, eccetera. Quindi corpo e mente non solo convivono insieme, ma si aiutano veramente, veramente tanto. È anche merito della dopamina, vero? Sicuramente. Che quando migliora la qualità della vita, dell'emozione ogni volta che ci esponiamo a qualcosa di bello, all'ascolto della musica, nutriamo la nostra mente. È un tema che hanno ripreso durante la settimana del cervello, di cui abbiamo parlato proprio a cuore denari, e la dopamina insomma è un è uno dei neurotrasmettitori che proprio ha a che fare esattamente col nostro umore, con il modo con cui funzioniamo. Quindi tutte le volte che viene, diciamo così, prodotto in un modo piuttosto che in un altro, ha delle vere e proprie conseguenze nel bene e nel male in quello che è il nostro cervello. Facciamo un esempio, e ci sono studi che fanno vedere come il mangiare determinate cose può cambiare dei livelli di dopamina, tant'è vero che si dice che l'alimentazione è un qualche cosa proprio che riesce a modulare l'umore di una persona. Ma... quali sono questi alimenti? Così diamo un po' di informazioni anche pratiche. Allora, diciamo che quando noi, diciamo così, abbiamo un'alimentazione particolarmente ricca di grassi piuttosto che di carboidrati con tanto sapore, questi possono magari andare, ci giocano un pochettino contro, sì. Perché è come se diventassimo dipendenti dall'avere queste sostanze per avere la produzione di determinati neurotrasmettitori. Viceversa, quando noi ci abituiamo a un'alimentazione, ecco, per esempio anche corretta, frutta, verdura, carni magre, soprattutto bianche, allora sì che abbiamo, come dire, un rilascio di neurotrasmettitori che è un pochettino quello che ci gioca più a favore che non contro, cioè non diventiamo dipendenti da determinate cose. Quindi anche un'alimentazione corretta non è soltanto il mi modula il mio peso, ma mi modula anche la sensazione con cui io ho. Professoressa Lucini, ci sono c'è uno stile di vita che accelera il nostro decadimento e uno stile di vita che lo protegge. Per questo abbiamo sottolineato in apertura che c'è un legame molto stretto tra stile di vita, età biologica, età anagrafica e performance. Esattamente. Vogliamo allora così sezionare il nostro corpo e andare a dare delle indicazioni mirate per rallentare, per portarsi bene gli anni, per godere di questo passaggio degli anni in modo che i nostri ascoltatori possano farne tesoro. Iniziamo a livello mentale, che come diceva la nostra amica è la testa, no? Che governa tutto. Teniamo conto che la testa governa tutto e la testa governa anche il nostro corpo. C'è proprio una parte di sistema nervoso che si chiama sistema nervoso autonomo, che è quella che intanto per intenderci ci fa respirare, fa battere il cuore, ci fa digerire, eccetera, eccetera, sì. Che nella realtà è ben collegata anche con la parte di volontà. Prima parlavamo di esercizi di respirazione, di rilassamento, certo. Di tutte queste cose. Bene, non è soltanto un qualche cosa messo lì tanto per una moda. Proprio perché è come se fosse l'unica chiave che noi con la nostra volontà possiamo utilizzare per modulare questi aspetti che controllano il funzionamento del nostro organismo, ok? Quindi questo è una delle chiavi, diciamo così, più importanti per poterci migliorare. Certo. Dall'altra parte, sempre parlando di testa, l'essere contenti è importantissimo. E qui vi faccio un esempio al contrario. Cioè se io poi, ad esempio, uso il mio corpo facendo attività fisica, vi è mai capitato che quando fate attività fisica siete stanchi, morti, ma siete contenti? Quando combatto la pigrizia, vero? Che ma... All'inizio è dura, è dura, diciamolo, perché è dura. Ma alla fine poi si è contenti. Questa è proprio la dimostrazione. Vedi, ancora un concetto, un investimento, vedi? Guarda, se uno investe nell'attività fisica, sì, non salta di qua e di là dalla poltrona, poi magari fa una corsetta, poi si rimette a sedere, eccetera, ma va dritto con un obiettivo, poi alla fine il risultato sei soddisfatta, ottieni di me o no? Ottieni un buon rendimento. Vedi, abbiamo fatto un reciproco investimento. Bravi. Su noi stessi, ci sta dando soddisfazione. È per quello che siamo qua solo nel risparmio a parlare di salute, perché è un modo per investire. Quando investi un po' di fatica la devi fare, però il risultato, i risultati che porti, certo, a casa sono importanti. Vogliamo leggere il tweet di Carla? Certo. Carla o Carlo? Non vedo, vede? Io ad esempio allora, adesso già non vedo. Questo è un segno, perché la presbiopia vuol dire che qualche cosa sta cambiando. Allora, Carlo. Sì. Vuoi leggerlo? 68 anni. Un 1,78 m, quindi alto come me. Pesa un po' meno di me. No, più o meno ci siamo. 68 kg, 3 ore di palestra per 5 giorni, 2 ore di tai chi 2 volte a settimana, alimentazione rigorosa. Cioè, è molto, vero? È molto, molto preciso. Si può anche essere un pochino più rilassati, più morbidi. Ecco. Nel senso che, guardate che, adesso magari faccio un po' ridere, ma fare il troppo non a tutti va bene. Ci sono anche degli studi che lo fanno vedere. Quindi bisogna incominciare a fare il giusto. Poi se faccio di più, senza arrivare a una esagerazione, mi va bene. Quindi rispetto al nostro Carlo, noi possiamo anche fare un qualcosina di meno. Non tutti, però, Carlo, ma insomma dobbiamo trovare la nostra misura. Se il però per passo. Carlo va bene, è perfetto, giusto che lui faccia questo. Per chi invece ha magari delle situazioni un po' borderline, un pochino problematiche da risolvere, li invitiamo come sempre a scriverci a cuoredenari@radio24.it. Abbiamo terminato per oggi. Sì, oggi abbiamo terminato. Io domani ti lascio. Mi sa che mi lasci con Yuri Keki. Lo so, in ottime mani. Io l'ho direi. Lanciato già oggi il nostro super ospite di domani, ma siamo così contente di averlo portato, per cui abbiamo fatto questa anticipazione. E poi torniamo a venerdì. Comunque, grazie professoressa Lucini. Grazie a voi. Le scriveremo, anche le gireremo le mail dei nostri ascoltatori. E misure del girovita rigorosamente per tutti. Noi salutiamo naturalmente anche il nostro grande Michele Previato, Luca Burato che ci assiste da fuori, Marco Lombardo che è venuto con noi qui in trasferta, Isotta Scenna che è rimasta là, e niente, buona giornata a tutti, buon salone. Cuore e denari.